è tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Il Capodanno del Convento, Capodanno imperdibile 2020, continua, siamo nelle fasi, diciamo così, più calde, lo stiamo vivendo praticamente da un paio d'ore e abbiamo aperto le porte della nostra radio per far, come dire, far uscire le emozioni di quello che sta succedendo e come stanno passando il 2020, l'inizio di questo 2020, alcuni dei nostri ospiti, abbiamo qui quattro ragazze che, insomma, il che mi fa molto fortunato in questo momento, sono, diciamo, l'invidia non solo del locale ma proprio di tutta la provincia di Brescia. Ci sono tra l'altro fatte code in autostrada in questo momento perché loro sono qui dentro e nessuno può entrare tranne me, per cui mi stanno denunciando e dando parecchie parole, ma io andrò avanti professionalmente e mi godrò questa fortuna. Allora ragazze, da dove venite? Da Bolzano. Bolzano, quindi non si sono fatte due passi, insomma c'è anche un po' di strada. Come vi chiamate? Nadine, Lisa, Alice, Sonia. Benissimo, e siete qui voi quattro, un gruppo più allargato? No, siamo qua con i nostri amici, in 18. Quattro le hai mandate fuori? No, perché non sono venuti a cena con noi, sono arrivati dopo. Sono entrati dopo, tra l'altro Bolzano è un bel giro, insomma, bello lontano, beh, devi sapere che noi abbiamo una piccola statistica interna, più o meno un tavolo ogni due settimane da Bolzano arriva, quindi siamo sì, te lo posso assicurare, da anni, o non avete niente da fare, no, e venite, no, no, non c'è niente da fare, e venite tutti qua, oppure siete affezionati, ma noi abbiamo veramente un legame quasi ormai di sangue con Bolzano, perché ne abbiamo veramente tanti. Allora, voi è la prima volta che venite o siete già? La prima volta, vedi, allora loro... La seconda, prima. Infatti lei giustamente era venuta qui con la guida. Grazie a lei. È venuta qui con la guida, vi ha istruito su tutti i posti, tutti gli angolini più bui. Li ha provati tutti la ragazza, sì, eh? Sì, ha proprio selezionato dei ragazzi nella serata precedente, tutti gli angoli, gli anfratti più bui li ha provati. Alice! Li ha provati, perché tra l'altro dicendo: ragazzi, non mi piacete, però devo... Devo provare tutti gli angoli. No, non tanto quello, devo aprire la strada per le mie amiche che verranno a Capodanno. Quindi se vi sacrificate, io poi dirò alle mie amiche: guarda, qui 10 più, qui 8 meno. E così. Buona samaritana, generosissima ragazza. E no, dicevo, nella vita invece cosa fate? A parte lei che va a provare gli anfratti di tutti i locali. Io sono maestra d'asilo. Perfetto, quindi i tuoi alunni saranno contenti del discorso che abbiamo appena fatto. Bambini anfratti nel senso di... Sono in ferie? No, diciamo che anfratti in lingua italiana vuol dire giocattoli, giustamente, no? Quindi lei ha provato i giocattoli perché poi così i bambini sanno come usarli. Tu? Io ho un centro estetico. Benissimo, estetista, non diciamo il nome se no lo roviniamo la carriera. No. La pubblicità e quindi... Vuoi fare pubblicità? Possiamo fare pubblicità? Sì, se volete, sono desideri di benessere a Lives, venitemi a trovare che sono bravissima. È bravissima, è stupenda. Tra l'altro, cioè, di una modestia pari a nulla, perché insomma si definisce bravissima e direi che dobbiamo crederle sulla parola. Beh, dai, il primo appuntamento libero è a marzo, penso. Primo appuntamento libero a marzo. Veramente. Complimenti, sa fare il ragazzo. Ma è tuo il centro o sei dipendente? Ah, grande. Da sola o da sola? Da sola. Non è buono, c'è anche i clienti, ti fai le unghie da solo. Ah, i clienti, sì, scusa, pensavo non voglio nessuno, appunto. Cioè, ti facevi le unghie da sola e ti facevi i complimenti. Che brava! Ah sì, a farsi le unghie. E si faceva anche le domande. Ma che colore vuoi? Guarda, io vorrei. Che colore? Sì, si fa le domande da sola e si risponde, così era pronta a tutto. E benissimo, bravissima, quindi andate a trovarla, insomma, se vedete una che parla da sola non vi spaventate, è normale, insomma, è una caratteristica di questo posto. Poi abbiamo la signora che prova gli angoli, maestra asilo nido, stavamo scherzando ovviamente, tutti i bambini all'ascolto che era tutto falso quello che abbiamo detto, e infine maestra d'asilo nido. Madonna, esatto. Ma vedi che fantasia che c'ha, è una tristezza infinita, ragazzi. Tutte messe da un'estetista che però cura la bellezza. E delle abbiamo tutte lavorato nello stesso posto. Davvero? Ah, non adesso o ancora? No, noi due adesso lavoriamo nello stesso posto. Ok. E lei ci ha abbandonato. Ah, ok. Quindi questo dimostra che a Bolzano si fanno bambini. Questo è un dato di fatto. Si fanno bambini, ce ne sono a sufficienza, giustamente, direi. Okay. Esatto, no, poi nel senso penseremo al futuro. Cioè 3 su 4 che fanno le maestre d'asilo è una buona percentuale. Tutti i nostri amici sono felici perché hanno le babysitter gratis. Molto, lo dico, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro scusa, siete giovanissimi, no? Quanti anni avete? 25, insomma, già beh, immagino non sia la primissima esperienza, no? È un po' che no, lo fate. No, no, no. Quindi vuol dire già che siete navigate e questo ecco dimostra che o vengono qui a Bolzano o stanno a casa e fanno figli. Questo esatto. Cioè il 50% della popolazione è diviso. È un nostro carissimo amico. Ah, credevo un alunno. Anche quello. Ah, credevo uno dei bambini. Non fanno, ah, ok, ok, perché infatti si vede dalla faccia che ha un'altra passione che non come dire esprimeremo. Bambini la conoscerete più o meno tra 15 anni la passione che ha il ragazzo quando passerete 18 prima, dici anche prima va bene. Allora quindi abbiamo un estetista e 3 maestre d'asilo. Io vorrei allietare il pubblico che adesso sta guidando direzioni varie e sparse e giustamente si chiederà: voglio ascoltare un po' di musica buona. Avrete una canzoncina dell'asilo, quelle porte sì, potenti. Vai. Non è che va proprio per le... No, ma lei è tedesca, non vale, una è italiana. Ma tanto non la capiamo. Io sono tedesca. Vabbè, con quello che avete. Proprio per l'educazione per i bambini. Adesso lasciamo che noi siamo maestri, ok? Sì. Noi siamo giovani. Sì. E quindi a noi quello che ci piace ascoltare sì. è Brusco. Ok, no, volevo che esprimeste una canzoncina che fa l'erba della giovinezza. Cioè, proprio da maestro d'asilo. La cantate, cioè cantate coi bambini l'erba della giovinezza. Ah no, io volevo volevo la canzoncina da dai, o Tannenbaum, dai, no, fagli sentire. Tannenbaum, guarda che è partita. Questo lo so anch'io. Un sacco di qua e vola di là, no, la canzone allora, della felicità. Allora, in pianura padana la versione è un passo di qua, un passo di là. A Bolzano è vola di qua e vola sì, di certo, là. Certo, perché noi siamo. Facciamo una tra parentesi. Loro sono dai 0 ai 3 anni. Io sono un po' più alta, dai 3 ai 6 okay, anni. Ok, già le prime. Tu hai già le prime cotte d'amore, i primi esatto, tradimenti, bravo. Quelle cose lì. Raga. Organizziamoci per una roba. Facciamo una canzone e quella dici, è. Quale volete vuoi. Fare? Non è maestra d'asilo per niente la ragazza, No, tralasciamo la maestra per favore. Il coniglietto. Ragazzi. I nostri guidatori che adesso sono in viaggio, cos'è che vogliono ascoltare? E che ne so, Tanti Fred De Palma. Facciamo Fred De Palma. Volete fare Fred De Palma? Ancora. Dai, vai. Vai. Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo. L'unica che non canta è quella che l'ha proposta, tra l'altro. Basta di lì. Se mi chiedi il passaggio com'è, ti risponderò niente di che. Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi se il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava e aveva il suono. Tutto l'album fanno, sì, no, direi che siamo più brave come maestri. No, la discografia. No, io no, sto cercando di. Ma questo. Cercando di interpretare il ragazzo cosa dice, ma non lo. È il vostro questo amico. Non lo conosciamo. Ah, non lo conosciamo. Sei incinta. Oh, incinta. Un uomo che manda i bambini dalla maestra. Sei incinta. Beh. Cica. Non ti sentiamo. Non sei brava a fare lo spelling. Esatto. No, no, mi dispiace. Non lo senti. L'Italia. La Sicilia. La Sicilia. La Sicilia. Cioè dal nord al sud. Bolzano. Bellissimo che stiano cercando con una di parlare con una persona che c'è un vetro antiproiettile praticamente che li separa. Ma allora indomite continuano. La Sicilia, l'abbiamo salutata, l'abbiamo detto. Ciao Sicilia. È stato bellissimo. E allora ragazzi, intanto rimettiamo la base, sennò mi si schiantano gli autisti adesso all'ascolto. E dicevo, volete fare un saluto, volete fare un augurio per 2020 ai vostri a chi volete? Ma sì, dai, facciamo un augurio a tutti i nostri amici, a tutti i nostri clienti, a tutte le mamme, a tutti i papà che ci portano i loro bambini. E speriamo che grazie. Che ti frega, grazie papà. Hai sbagliato lavoro, che ti frega dei bambini. Ringraziamo anche tutta la gente che va ancora a farsi la ceretta, farsi le unghie, farsi le sopracciglia, farsi i massaggi. Soprattutto ringraziamo i genitori che hanno sempre la possibilità di mandarci i loro bambini da noi e li ringraziamo tanto. che hanno questa grande facoltà e questa voglia di produrre. Esatto, quindi mi raccomando ragazzi all'ascolto, fatevi crescere i peli, perché poi se ve li fate crescere la ragazza può lavorare. Esatto. A chi dice vengo per vengo dal convento. Esatto. Tra l'altro la ragazza fa uno sconto veramente particolare, ogni 10 cm di pelo vi sconta un 10%. Quindi 20 cm di pelo, 20% di sconto sulla ceretta. Esatto, esatto, questa è una proposta incredibile, quindi scimmie all'ascolto, orangotanghi e scimpanzé, fatevi avanti, anche i due leocorni se sono in giro possono andare a fare un giro e lei vi accoglie tutti. L'importante è che abbiate pelo lungo e non coltivato da, da parecchi mesi. E bambini, e bambini, presentatevi con dei bambini o un certificato di nascita e lei sarà ben felice di... Potete fare tipo una beauty farm nel, in un locale... Quando guadagnerà abbastanza per pagarci potremo farlo. In un locale attiguo alla, all'asilo, mentre le mamme consegnano i bambini, poi fanno un passaggio da lei per la, la rimessa in sesto. Bene. Magari qualcuno è pronto a finanziarmi, perché potrebbe essere un bellissimo progetto. Vedi, non è male. Le mamme, tutte tanto a Bolzano che... spazio ne avete da vendere, esatto. Tutto verde. Ne bambini, esatto. Ne abbiamo. Perfetto, non vi manca nulla. L'estetista ce l'avete. Non vi manca nulla, non c'è neanche concorrenza, perché insomma è l'unica in tutta la provincia, quindi è incredibile. Benissimo, allora ragazze, grazie di essere state con noi e soprattutto buon 2020 a voi, ai vostri amici e a tutti gli amici. Allarghiamo quindi il saluto di Bolzano e dintorni che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno. Grazie ancora ragazze e buon anno. Ciao! Grazie, buon anno!